Metta means goodwill. Metta significa benevolenza. When we practice metta, we're developing an attitude. Quando si pratica metta, si sviluppa un'attitudine. Not an emotion. Non un'emozione. So it doesn't matter how you feel. Quindi non è importante come vi sentite. You might not feel particularly happy at this present time. Potreste non sentirvi particolarmente felici in questo momento. Mm. So we can just put that to the side. Ma questo lo possiamo mettere da parte. Mm. We don't have to pay attention to that. Non dobbiamo portare l'attenzione su questo. Our attention is the person that we are bringing to mind. La nostra attenzione è sulla persona che stiamo portando alla mente. And we are just offering them our blessings. E a queste persone stiamo offrendo la nostra benedizione. So, for instance, if you meet somebody and you feel yourself a little depressed, if you meet a friend and you feel yourself a little depressed, se incontrate un amico e vi sentite un po' depressi, you put that to the side and you greet them with joy. E lo mettete da parte questa sensazione e lo salutate con gioia. So don't be worried about how you feel. Non preoccupatevi di come vi sentite. So we have our traditional blessings. Abbiamo le benedizioni tradizionali. I think may you be well. Possa tu stare bene. May you be safe. Excuse me. May you be safe. Possa tu essere sicuro. Safe. May you be well. Possa tu stare bene. And may you be happy. E possa tu essere felice. And to develop a life which is more contented. To develop a lifestyle which you're more contented. E questo per sviluppare uno stile di vita che è più appagante. Appagante. To be contented and to live in harmony. Essere contenti e vivere in armonia. With the world, to live in harmony with the world. In armonia con il mondo. Even when the world is not such a pleasant place for us. Anche quando il mondo non è un posto così piacevole per noi. So may you be safe, well and happy. E quindi possiate essere al sicuro, star bene e felici. May you live contented and in harmony with the world. Possiate vivere in appagamento e in armonia con il mondo. So we can bring to mind our benefactors. Possiamo portare alla mente i nostri benefattori. Just one or two people who have helped us in our lives. Un paio di persone che ci hanno aiutato nella vita. As you imagine them in your mind, mentre li immaginate nella vostra mente, drive your good intentions towards them. Mandate le vostre buone intenzioni verso di loro. May you be safe, well and happy. Possa tu essere al sicuro, star bene ed essere felice. May you live contented in harmony with the world. Possa tu vivere in appagamento e in armonia con il mondo. We can bring to mind those who are near and dear to us. Poi portate alla mente quelli che ci sono vicini e che ci sono cari. And there are friends, people at work, whomever we wish. E amici o persone del lavoro o qualunque persona che volete. Then there are neutral people. Ci sono persone neutre. Such as neighbors, people you see but don't know. Come vicini, persone che vedete ma non conoscete. Offer them the same quality of goodwill. Offrite loro la stessa qualità della benevolenza. Turning now that stream of goodwill towards ourselves. E spostando ora questo schermo di benevolenza verso di noi. And then into the good heart we can bring somebody we have difficulties with. E poi dentro al cuore possiamo portare qualcuno con cui abbiamo difficoltà. Now we can begin to radiate our goodwill outwardly, more general. E poi possiamo cominciare a irradiare la nostra benevolenza fuori, in modo più generale, generico, verso il fuori. First of all, to each other, here in this room, our present spiritual companions. Prima di tutto, ciascuno di noi in questa stanza, i nostri compagni spirituali del momento. May we be safe, well and happy. Possiamo noi essere safe, al sicuro, star bene e felici. May we live contented in harmony with the world. Che noi possiamo vivere appagati e in armonia con il mondo. Relocating to where we live, to our neighbors and neighborhood. E riportandoci al luogo dove viviamo. Verso i nostri vicini. To all the people in our country. A tutte le persone nel nostro paese. To all the peoples of Europe. Tutte le persone dell'Europa. All people on earth. tutte le persone della terra. And to all beings in all directions. E a tutti gli esseri in tutte le direzioni. We can draw our practice to an end with a little chant. E ora possiamo portare la pratica alla fine con un piccolo canto. It means may all beings be happy. Che significa possano tutti gli esseri essere felici. Sabei sata sukita hontu. Three times. Tre volte. And three times sadhu. E per tre volte sadhu. Which means well done. Che significa ben fatto. Ah, bravi. Bravi. Sabe sata sukita hontu. Sabe sata sukita hontu. Sabe sata sukita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. So, just mindfully coming to a sitting posture. E quindi ora, sempre consapevolmente, ritorniamo alla posizione seduta.